Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Tempo 2 anni e mezzo e il campus universitario della Città della Scienza e Tecnologia di Borg El Arab, vicino ad Alessandria d'Egitto, ospiterà il primo discendente, chiamiamolo così, del famoso impianto Archimede, l'impianto solare termodinamico di Priolo Gargallo. Ecco, partiamo da qui. Che cos'è un impianto solare termodinamico? Ne abbiamo parlato altre volte qui a Mr. Kilowatt, ma è utile fare un ripasso. Ebbene, è un sistema, in estrema sintesi, di specchi orientabili che concentra la luce del sole su un bersaglio al cui interno scorre un fluido. Per esempio, possiamo immaginare una lunga fila di specchi parabolici con un tubo di vetro speciale posto nel fuoco. Ci sono altre geometrie possibili, ma a noi è questa geometria che interessa stasera. Ebbene, in questo modo il fluido che scorre dentro il tubo raggiunge temperature molto elevate, a partire dalle quali è possibile produrre energia elettrica. Ma che tipo di fluido è? Beh, tradizionalmente si usano gli oli minerali, ma da qualche anno, ormai da diversi anni per la verità, l'Enea ha messo a punto una miscela di sali fusi che ha due vantaggi. Il primo è che raggiunge temperature più alte degli oli minerali, arriva fino a 550 gradi. Il secondo vantaggio è che è un ottimo accumulatore di calore. Così basta, insomma, mantenere in un serbatoio una riserva calda sufficiente di questi sali fusi per produrre energia anche quando il sole manca, superando in questo modo quello che è considerato un po' il principale difetto del fotovoltaico, cioè il fatto che la produzione di energia elettrica va e viene con il sole. Ora che abbiamo ripassato cosa sia il solare termodinamico, cerchiamo anche di capire che cos'ha di speciale invece l'impianto che nascerà in Egitto, che ha delle caratteristiche uniche del suo genere, di cui ci parla Alberto Giaconia, ricercatore dell'Enea, che fa parte del gruppo di coordinamento di questo progetto, progetto MATS. Buonasera Giaconia. Buonasera, buonasera. Allora, MATS sta per Multipurpose Application by Thermodynamic Solar, ed è in questo primo termine, multipurpose, cioè multiutilizzo, diciamo così, che si annida la novità di questo impianto. Giaconia? Esatto, l'obiettivo del progetto MATS è quello infatti di trovare dei modi ottimali di utilizzare l'energia raccolta, non solo per la produzione di energia elettrica, ma applicare altri utilizzi dei cascami termici che ne derivano, come ad esempio potrebbe essere il vapore di scarico della turbina di produzione di energia elettrica, per assolvere ad altri servizi essenziali che attualmente vengono realizzati sfruttando i combustibili fossili. Stiamo parlando ad esempio della distillazione dell'acqua di mare e anche della possibilità di operare del teleriscaldamento, del condizionamento di ambienti urbani o residenziali o anche industriali. Insomma, noi abbiamo un solo impianto. Questo calore che viene raccolto può essere utilizzato per produrre energia elettrica. Quello che avanza, il calore che avanza rispetto alla produzione di energia elettrica, può essere destinato per esempio a riscaldare delle unità abitative oppure a raffreddarle, ci sono dei sistemi di solar cooling per fare questo, oppure a dissalare l'acqua che da quelle parti non abbonda, diciamo così. È un po' questo. Ecco, di che dimensioni stiamo parlando? Quanta energia produrrà questo impianto? Di che potenza? Allora, l'impianto ha una potenza dell'ordine dei 5 megawatt termici, che equivalgono alla produzione di energia elettrica per circa un megawatt. I cascami termici, che ovviamente saranno dell'ordine di 4 megawatt, saranno poi utilizzati per la cogenerazione. Ecco, quanto è grande più o meno questa struttura? Allora, si tratta di complessivamente 18 collettori parabolici della lunghezza di 100 metri ciascuno. Per dare un'idea del campo solare, siamo intorno ai 2-3 ettari di superficie occupata. D'accordo, quindi un paio di campi da calcio all'incirca. Un paio di campi da calcio, esattamente, sì. Ecco, intanto le dimensioni piccole di questo impianto rappresentano una novità, perché normalmente quando si parla di solare termodinamico si pensa a grandi impianti, grandi estensioni di terreno, potenze dell'ordine perlomeno dei 20 o 50 megawatt elettrici, qui è uno solo. E c'è un'altra novità che mi sembra altrettanto importante, cioè questa centrale è ibrida, la parte solare è accoppiata con un'altra fonte di energia che tipicamente dovrebbe essere biomassa, se non sbaglio. Esatto, le caratteristiche principali di questa tecnologia essenzialmente si basano sulla flessibilità in termini appunto di livello dei prodotti forniti, energia elettrica, acqua dissalata, eccetera, della capacità, appunto grazie all'accumulo, di dispacciare l'energia e i servizi prodotti quando essi sono necessari, indipendentemente dalla disponibilità di energia solare, ma ancora più importante è la possibilità di utilizzare un mix di fonti energetiche per produrre appunto in modo sostenibile tutti questi servizi. In questo caso stiamo parlando della ibridizzazione, accostando l'energia solare e integrando l'energia solare ad altre fonti energetiche capaci di produrre calore, quindi combustione di biomassa, per restare sempre nell'ordine delle fonti pulite, e in caso alternativo anche utilizzo di gas naturale, permette di ibridizzare questi impianti e quindi rendere molto più maneggevole la produzione di energia, e allo stesso tempo garantendo anche nei periodi, ad esempio invernali, una continua produzione dei servizi. Ecco, questo risponde proprio ad una logica di efficienza, nel senso che per esempio qui abbiamo un solo generatore di energia elettrica, che sarà una turbina a vapore, però sono tante le fonti più o meno rinnovabili che gli si possono associare. Ecco, questo tipo di approccio alla produzione dell'energia elettrica è forse qualcosa che dobbiamo imparare a fare sempre di più se andiamo verso un nuovo paradigma energetico che invece era basato sulla standardizzazione, no? Carbone, gas, petrolio. Esatto, l'obiettivo è quello di utilizzare al meglio il mix delle fonti energetiche che in quel sito particolare sono disponibili. E anche in quel momento, perché per esempio tra l'estate e l'inverno certamente la biomassa e l'energia solare si potranno alternare. Grazie Giaconia. Grazie a voi, buonasera. È tutto, aspetto le vostre email a Mr. Kilowatt, scritto per esteso, @radio24.it. Buona serata, appuntamento a domani.